Allora, caro visitatore, innanzitutto vorrei darti un caloroso benvenuto alla Solo Performance la seconda volta. Finalmente ci conosciamo. La Solo Performance la seconda volta è il secondo episodio della trilogia della vittima, in cui racconto i miei incontri con forze oscure di vario tipo. Ti chiedo gentilmente di sederti sul palco durante lo spettacolo. Non ti chiedo nient'altro che sederti su una sedia a tua scelta e stare lì, seduto, sotto i riflettori delle luci del palco. Sulla sedia ti aspetterà il testo che, solo se tu lo desideri, potrai leggere. A te la scelta sul se leggere e su come leggere, se da solo, a bassa voce e per te stesso, o se ad alta voce. Se tu lo vorrai, anche al microfono che ti verrà passato. Lo spettacolo dura 50 minuti, ma potrebbe prolungarsi. Quando e se tu riterrai che il tempo trascorso insieme sarà stato abbastanza, ti chiedo solo di andartene, silenziosamente. La Solo Performance la seconda volta verrà registrata, quindi è possibile che anche tu appaia in qualche registrazione. La seconda volta, Cabaret Extra Voltaire, episodio 4, Exalge. Dedicata a Vitomil e Ctomir. Certo, Mir. Mi avete rubato il foglio con i miei accenti. Autrice Simona Semenic. Grazie, grazie mille. Grazie, ora meglio. Riparto. Allora, autrice Simona Semenic con Urška Jetz e Igor Remeta. Ideazione e progettazione visiva Barbara Capelli, disegno luci Andrei Petrovcic, supporto emotivo Simona Hammer e Rock Vevar, traduzione italiana Martina Alessia Parri. Grazie Certomir e Vitomir, grazie mamma, zietta, Boris, Lara, Vesna, Milan, Amelia, Luca, Matei, Simona, Ivan, Rock, Andrei, Emil, Mare, Urška, Barbara e Igor. Grazie Mara. Non sarebbe stato possibile senza di te. E grazie Katia Cicigoi. La tua laurea è stata essenziale perché questo accadesse oggi. Io, sottoscritta Giulia Trivero, dichiaro di essere stata informata sullo svolgimento dello spettacolo la seconda volta dell'autrice Simona Semenic ed entrare volontariamente a farne parte. Io, sottoscritta Martina Parri, presto il consenso a stare sul palco durante la seconda volta dell'autrice Simona Semenic e a non ricevere alcuna forma di pagamento. Io, sottoscritta Paola Galassi, dichiaro di essere stata informata sullo svolgimento dello spettacolo la seconda volta, the second time, dell'autrice Simona Semenic e di entrare volontariamente a farne parte. Io, sottoscritta Giulia Maino, presto il consenso a stare sul palco durante lo spettacolo la seconda volta, the second time, dell'autrice Simona Semenic e a non ricevere alcuna forma di pagamento. Siamo al terzo testo, la seconda volta. La seconda parte della trilogia della vittima, messa in scena per la prima volta esattamente 7 anni dopo la prima parte, cioè dopo Io la vittima. Anch'esso al Club Gromka di Metelkova. Mi sto lanciando nelle pronunce. Sempre entro il Festival della Città delle Donne. 7 anni, accidenti, sto diventando vecchia. La seconda volta. Traducibile anche con la prossima volta o un'altra volta. Tienilo a mente mentre leggi. Dedicato a Vitomil e Certomir. Tempo, mercoledì 9 luglio 2025. ora, sempre, in qualsiasi momento. Luogo, ex alge. Qui, ovunque, dovunque. Dramatis persone, Simona Semenic, tu. Sono in piedi di fronte alla porta del teatro. È ora di entrare. Tengo la maniglia della porta. Inspira, espira. Sto entrando. Ho il fiato corto. Ho corso per 45 minuti, che al mio ritmo sono circa 7 chilometri. Ho il fiato corto, sono sudata, rossa in viso, gonfia. Entro. La dramatis persona Simona Semenic entra. Mi piacerebbe immaginare di entrare con grazia e che tutto tacesse quando entro. Mi piacerebbe immaginare che l'aria si addensasse e il tempo si fermasse mentre cammino con grazia di fronte a te. Ma fanculo, sono stravolta, ho dormito a malapena, ho provato tutto il giorno e corso per 45 minuti. Ho la faccia rossa, i capelli appiccicosi, ho decisamente bisogno di una doccia. Ma fa tutto parte dello spettacolo, è così che dovrei apparire. È così che lei, la dramatis persona Simona Semenic, dovrebbe apparire quando entra in teatro. E poi tu mi noti. Mi noti anche se... Se in me non c'è un briciolo di grazia. Prima noti la mia faccia rossa, poi noti i miei capelli appiccicosi e poi ti accorgi che indosso una specie di completo da corsa. Pantaloncini neri con una striscia rosa sul lato, pantaloncini da corsa Adidas Supernova Donna, 32,99 euro. T-shirt da corsa rosa, t-shirt running Adidas Donna, 32,95 euro. Rosa, proprio rosa. Calzini neri con striscia rosa in alto, calzini Devil Sport Donna, 12,99 euro. E scarpe da corsa, con ovviamente l'immancabile striscia rosa. Scarpe da corsa Axix Gel Donna, 70 euro. Guardo verso di te. Ti sorrido. Nel modo più seducente possibile. Almeno credo di farlo in modo seducente. 12,99 euro. Forse ti dico buonasera. Forse non dico nulla mentre cammino verso il palco. 12,33. Ansimando, stravolta, rossa in viso. 59,90. Mi siedo sullo euro. Sgabello da bar sul palco. Accanto allo sgabello da bar sul palco c'è un tavolino su cui si trova il testo. Accanto al testo ci sono un termos, un pacchetto di sigarette, un accendino, un posacenere. Dietro il tavolo, proprio accanto al muro, ci sono due scatole di cartone, piene di sacchetti di plastica. Accanto al muro una pila di cartoni. Sono seduta sullo sgabello da bar, un po' meno ansimante. Ma rossa come un peperone ora. Quindi sì, lo sgabello da bar, la crisi, la faccia viola, mio figlio il più grande. Si chiama Certomir, ora ha 24 anni, allora ne aveva 5. No, no, in realtà non ne aveva 5. Oh merda, è iniziato per davvero. Ti guardo. Ti sorrido. Inspira. Espira. Un'altra ispirazione. Lasciatemi fumare. Dico. Rimango in silenzio per un po' perché le parole si dissolvano. Ti guardo. Vorrei accarezzarti con lo sguardo. Provo ad accarezzarti con lo sguardo, ma non so se funziona, non so nemmeno se sono capace di accarezzare con lo sguardo. Sorrido. Le parole si sono dissolte da un po'. Stai forse sorridendo adesso? Ma la dramatis persona Simona Semenic è ancora lì. E poi? Rimango in silenzio ancora per un po'. E poi? Lasciatemi fumare. È così che ho concluso il primo assolo di parole della mia trilogia. Lasciatemi fumare era l'ultima frase di Io la vittima, che ha debuttato esattamente 7 anni prima del debutto di questo spettacolo, la seconda volta, il 12 ottobre 2007 alle 9 di sera, nello stesso luogo e allo stesso festival, che è il City of Women Festival di Lubiana. Sì, avete calcolato bene. Sono 17 anni, 8 mesi e 27 giorni a partire da oggi. E dopo il primo debutto di Io la vittima, ce n'è stato un altro ancora, fino al debutto italiano del 2023 con la bellissima Valentina Lodovini, che è stato il settimo. Sette. È un numero magico. Ma non ne parleremo ora. Non parleremo di numerologia, simbolismo e cose simili. Tornerò anche su Io la vittima, ma prima devo davvero ringraziarvi per essere qui con me oggi. Grazie. Anche oggi ci divertiremo con la mia anamnesi, proprio come 17 anni fa. A proposito di anamnesi, sapete che Io la vittima è circolato tra i medici come esempio di una perfetta anamnesi? Comunque. Bip. Bip. Bip. Bip. Bip. Bip. Bip. Bip. Potete per favore aiutarmi con questo? Bip. Bip. Ti guardo. Bip. Per favore aiutami. È ciò che vorrei dire con lo sguardo. Forse ci riesco. Forse tu mi capisci. Forse tu sali sul palco e forse ti avvicini e magari tu mi aiuti a indossare la macchina per la pressione sanguigna. Omron M2, misuratore di pressione sanguigna 59,90 euro. Oh, finalmente. Ne avevo proprio bisogno. Ma quello di cui avrei davvero bisogno ora è una doccia. Ma dovrò aspettare ancora un po'. Anche se preferirei andarmene, lasciarti qui ad aspettare, correre a casa mentre tu aspetti, fare una doccia, cambiarmi e tornare. Questo è ciò che la dramatis persona Simona Seminic vorrebbe davvero fare in questo momento. Dovrei spiegare il perché della corsa. Perché la corsa è così importante? Perché la corsa, ti chiederai? Beh, ci arriverò tra un attimo, solo un po' di pazienza, per favore. C'è qualcuno che non ha visto o ascoltato la puntata di Cabaret Extra su Io la vittima? Comunque, dal primo debutto del 2007 sono successe parecchie cose. In questi 17 anni, per esempio, i miei capelli sono cresciuti, mentre allora la mia testa era rasata e li ho ancora tagliati. E poi sono cresciuti di nuovo, alcuni sono anche grigi. In questo 17 anni, mio figlio di 6 anni è diventato mio figlio di 24 anni e uno dei miei ovuli è diventato il mio figlio di 16 anni. Ma prima di cominciare devo fare un'altra cosa, scusate. Prima di entrare ho corso 45 minuti, devo ricaricarmi di elettroliti e altro. Solo un momento. Mi alzo. Mi alzo e mi avvicino alla scatola di cartone vicino al muro. Frugo tra i sacchetti di plastica e cerco qualcosa. I sacchetti frusciano. I sacchetti frusciano più o meno così. Ah, eccolo qui. Dal sacchetto estraggo il macina caffè elettrico. Moulinex macina caffè 134,90 euro. È bellissimo, rosso scintillante, ti piace, eh? Metto il macina caffè. Moulinex macina caffè 134,90 euro. Un pacchetto di semi di chia. Semi di chia biologici 250 grammi 7,95 euro. Un pacchetto di alga spirulina. Spirulina biologica 250 grammi 23,90 euro. Del sale himalayano. Sale himalayano 500 grammi 8,37 euro. Un limone. Limoni biologici 1 kg 2,99 euro. E un contenitore d'acqua sul tavolo. Bene. Ora possiamo cominciare per davvero. In Io la vittima, 17 anni fa, parlavo della mia condizione, o meglio, condizioni. Io la vittima è un test su epilessia, herpes genitale, pipì a letto fino a 16 anni, mastite durante l'allattamento e altre patologie, più o meno divertenti, che ho avuto. Ti guardo, ti sorrido, tu mi stai guardando. Alzi la mano? O mi stai solo guardando? Stiamo procedendo lentamente. Ok, molto bene. Lentamente. Bene. Quindi Io la vittima era uno spettacolo su alcune mie malattie, problemi, disturbi, come li chiamavo nel 2007. Nel 2014, quando misi in scena la seconda volta, iniziai a chiamarli in un altro modo. Iniziai a chiamarli benedizioni, perché avevo imparato che cose che possono sembrare difficoltà sono in realtà dei doni. Doni che vanno scartati nel modo giusto perché diventino un sostegno e una guida. Quando la situazione era una commedia, avevo crisi gravi una volta ogni 3 anni e di tanto in tanto piccole crisi. nessuna per settimane, a volte molte al giorno. Ma me la cavavo. Le crisi, il lavoro, la famiglia. La vita era piuttosto divertente. Una commedia. Poi a un certo punto, beh, non so cosa sia successo, ma le cose iniziarono a precipitare. Amo questa espressione in inglese, going down the hill. Presuppone che un momento prima di precipitare down the hill ci si trovava su una collina, su un pendio. Magari non proprio sulla cima, ma sicuramente in alto, da qualche parte. Quindi in un primo momento era da qualche parte sulla collina, questa è la commedia. La tragedia è che quando sei in alto non te ne rendi nemmeno conto, non sai di essere in alto, e poi quando tutto inizia a precipitare succede troppo in fretta. Non c'è tempo per accorgersene. Un attimo prima sono una madre single di due figli, direttrice di un piccolo teatro di Lubiana, nella mia nativa Slovenia. Un posto tipo questo. Forse è per questo che sono così a mio agio qui. Sono davvero a mio agio? Beh sì, certo che lo sono. Sono la fottuta stella della serata. Sto da Dio. Altra digressione, scusate. Giusto per rinfrescarti un po' la memoria, una volta ebbi un attacco epilettico mentre ero seduta su uno sgabello e cadi per terra. E dato che lo sgabello era piuttosto alto, mi feci parecchio male. Mi ruppi l'osso sopra l'occhio. Secondo Google, quello che si chiama tacca sopraorbitale. Mi misero alcuni punti di sutura e la mia faccia divenne nera, blu e viola per diversi giorni. Il corpo anche, ma questo non è importante, visto che la gente non poteva vederlo. Eh sì, mi piacerebbe davvero, davvero tanto condividere con voi l'aneddoto più divertente in assoluto di Io la vittima. Non ci verrà più di un paio di minuti. Non vi dispiace, vero? Voglio dire, non abbiamo ancora fretta, giusto? Quindi sì, lo sgabello da bar, la crisi, la faccia viola, mio figlio, il più grande, si chiama Certomir. Ora ha 24 anni, allora ne aveva 5. No, in realtà non ne aveva 5 perché successe esattamente 5 giorni prima del suo 5° compleanno. Quindi, dopo la caduta che mi fece diventare la faccia viola, lui non mi voleva guardare. Preferiva guardare il muro piuttosto che guardare me. Ma poi 2 giorni dopo, quando uscì dall'ospedale, andai a prenderlo all'asilo. Scusate, sto correndo un po' qui. Ma voglio tagliar corto. Quindi sì, l'asilo e la faccia viola. Apro la porta e certo mi viene incontro. Punta la mano destra verso di me e la sinistra verso i suoi amici. Lui fa così e dice: "Tada! E questa è la sorpresa viola." Scusate la digressione, riprenderò a momenti. Anche se ve lo devo anticipare, stasera ci saranno molte digressioni e ancor più improvvisazioni. Dopo quella crisi sullo sgabello, non mi siedo più sugli sgabelli. È molto meno pericoloso se mi siedo su una sedia normale. Sedendomi sullo sgabello da bar durante lo spettacolo, probabilmente volevo fare una dichiarazione, probabilmente volevo dire al pubblico: guardatemi come sono coraggiosa, o forse guardatemi come combatto le mie paure, o forse solo guardatemi quanto sono figa, che in fondo non sono altro che diverse versioni della stessa cosa, ma comunque. Come se fossi in una nuvola, nebbia ovunque. Sono cosciente, ma non riesco a reagire. E saliva che mi cola dalla bocca. Fine della citazione. Quindi sì, questa breve descrizione delle piccole crisi è una descrizione piuttosto accurata della mia condizione nei pochi mesi che seguirono il momento in cui mi svegliai sul divano del mio soggiorno. Rimasi in questa nuvola per alcuni mesi e questo non era il fondo, non ancora. In Io la vittima descrivevo le crisi epilettiche come essere in una nuvola. La nuvola era un'espressione poetica ricorrente nello spettacolo. Ogni disturbo di cui parlavo aveva qualcosa a che fare con la nuvola. Per la pipì a letto disegnavo nuvole sul calendario ogni volta che bagnavo il letto. Per l'herpes genitale erano piccole nuvole giallastre sul sedere e sui genitali. Per la mastite aveva a che fare con le mie tette, che erano nuvole di pus. E così via. E per le crisi epilettiche, citazione. Eccomi qui che parlo di nuovo di questa crisi. Ho parlato di questa crisi innumerevoli volte. Io, la vittima, ancora e ancora. Non voglio parlarne di nuovo di questa crisi, ma tu vuoi sentirne parlare? Come se fossi in una nuvola. C'è qualcuno che vuole sentirne parlare? Nebbia ovunque. Non è che non voglia parlarne perché non voglia essere una vittima. Sono cosciente ma non riesco a reagire. Io adoro essere una vittima. Che mi cola dalla bocca. È l'unica cosa in cui riesco davvero. l'unica cosa in cui sono perfetta, non voglio parlarne, perché con te preferirei parlare di qualcosa di bello, qualcosa di divertente, vorrei che tu ridessi. Mi piace vederti ridere. Sono felice quando ridi, e anche quando non ridi per me, anche quando ridi per altri spettacoli di qualcun altro e non sai nemmeno che da qualche parte esista una certa drammatis persona, Simona Semenic, anche in quel caso io sono felice quando lo sei tu. Ma se questo non è amore, allora che diavolo è? Ed ecco a voi la sorpresa viola. Quindi, dopo questa crisi, i miei problemi o benedizioni, come li chiamavo nel 2014 e continuo a chiamarli ancora, iniziarono a moltiplicarsi. Ipotiroidismo, pressione bassa, ipoglicemia, anemia, iponatremia, costipazione cronica, gastrite cronica, depressione. Mi stai ancora ascoltando? O i tuoi pensieri vagano altrove? Forse stai pensando al tempo di ieri, ai caldi raggi del sole estivo, che avresti dovuto sfruttarli meglio per ricordarti quanto tu sia vivo. E anche io in questo momento sto pensando alla stessa cosa, a quanto io sia viva qui con te e i raggi del sole. Durante lo spettacolo Io e la vittima fumavo. Lo spettacolo andò in scena esattamente dopo la fine dei bei vecchi tempi, quando si poteva fumare ovunque. La cosa particolare è che alla fine del mio assolo di parole, fumare. Spiegavo quanto mi desse fastidio non essere più al centro dell'attenzione. Fatemi fumare. Che i bambini mi stessero rubando l'attenzione, che avrei voluto produrre una nuova diagnosi. E li incontrai te. E mi porta a ballare. E tu mi porti a ballare. E balliamo. E poi se ne va dicendo che tornerà. E poi tu te ne vai dicendo che tornerai. E so che lui non tornerà. E so che tu non tornerai. E poi inizia a cercarlo. E poi inizia a cercarti. E ti sto ancora cercando, anche se tu sei seduto qui di fronte a me, anche se posso guardarti, anche se tu puoi guardarmi. E mentre stavo navigando, scalando, guadando, balliamo, d'un tratto sono inciampai, caddi, e cominciai a rotolare giù per la collina, e going down the hill. E poi mi svegliai. E li incontrai. No, lui. No, non è una sorta di espressione poetica, e quest'ultima frase, intendo. Cioè, la frase te. Mi svegliai per davvero. Una notte, o forse era già mattina, o addirittura giorno. E balliamo. Non ricordo. Mi svegliai e il mondo era diverso. Mi svegliai sul divano nel mio soggiorno e niente era più lo stesso. Non avevo idea di come fossi finita su quel divano, o di quando, o di chi fossi io in realtà. Chi sono? Sono la dramatis persona Simona Semenic, vero? E cosa posso dire? Sembra che io sia stata fortunata. Voglio dire, d'improvviso mi sveglio sul divano del mio soggiorno e mi ritrovo in questo nuovo tempo. Sono la vittima che volevo essere. Sono una specie di mega vittima. Un mucchio di episodi interessanti da quella notte di febbraio. E allora tutto mi fu chiaro. Intendo dire, mi fu chiaro il motivo per cui nulla mi era chiaro. È chiaro? Potrei raccontarvi quando ebbi una crisi nel mezzo di una prima, ero seduta in platea e dovettero interrompere lo spettacolo. Da allora non vado più a teatro municipale. Io la mega vittima, di nuovo. E quando mi venne una crisi nella mia stanza d'hotel e quando ripresi conoscenza nella hall all'ultimo piano coperta di sangue e piscio, il mio stesso sangue visto che mi ero morsa la lingua e il mio stesso piscio visto che mi ero pisciata addosso. Mega vittima, ve lo dico io. Ma questo è troppo, è assolutamente troppo per una sola di parole. Ne parlerò un'altra volta. Ma tu vuoi sentirne parlare? Tu vuoi sentirne parlare? Resistete ancora un po'. C'è qualcuno che vuole sentirne parlare? Allora, drammaturgicamente parlando, è il momento perfetto. Ho già raccontato la mia storia di io la mega vittima. L'ho condita con due bambini. Se questo costituisca un abuso o meno lo discuteremo un'altra volta. anche se io la mega vittima sarebbe ancora più piccante se i miei raggi di sole scorrazzassero qui in questo momento, il che costituirebbe quasi sicuramente un abuso. Quindi vi chiederei gentilmente un contributo volontario. Sì, ma preferirei parlare di qualcosa di bello, qualcosa di divertente. Ho una scatola di latta pronta, un momento solo. No, vorrei che tu ridessi, che mi piace vederti ridere. Eccola qui, non è bellissima? Sono felice quando ridi. Vabbè, vi chiedo comunque di contribuire con quello che potete alla sopravvivenza di io, la mega vittima. La vita era precipitata verso il fondo. Anche quando non ridi per me, anche quando ridi per altri spettacoli. Per me e soprattutto per i miei figli, non solo perché hanno assistito alle mie crisi e non solo perché la già insicura condizione finanziaria di una madre single, freelance, nella cultura è diventata ancora più precaria. Per me era molto, molto difficile esserci per loro. Ci ho provato davvero, ma c'erano periodi in cui non ce la facevo a fare tutto. Come freelance non riuscivo a lavorare, il che si traduceva inevitabilmente in un reddito più basso. Come casalinga non riuscivo a cucinare, pulire, mantenere un minimo di ordine in casa. Come madre non riuscivo a dedicare abbastanza attenzione ai ragazzi, a dare loro abbastanza amore. Ok, lo so che il pathos qui è andato oltre ogni limite del buon gusto, decoro, decenza, ma sopportatemi ancora un po'. Azzeccata? Appropriata? Pittoresca? Sì, direi così. Direi pittoresca, comunque. Il momento della tragedia. Il numero delle crisi mi aveva stremato fisicamente, psicologicamente, mentalmente, spiritualmente, fino al midollo. E suppongo che ora, drammaturgicamente parlando, questo sia il momento perfetto per affrontare questioni più serie, per arrivare al punto, diciamo, per iniziare ad affrontare il motivo del nostro incontro, le tattiche di sopravvivenza. Qui vi devo spiegare un'altra cosa. La prima di questo spettacolo venne presentata al 20° Festival City of Women, che era incentrato sulle tattiche di sopravvivenza, sulla condizione lavorativa degli artisti, dei lavoratori precari e liberi professionisti nel mondo dell'arte. Ma nonostante ciò e a causa di ciò, è per questo che siamo qui adesso. Tattiche di sopravvivenza. Vi chiedo dunque di contribuire con quello che potete alla sopravvivenza di io, la mega vittima. Mi alzo dallo sgabello con la scatola dorata tra le mani e faccio un passo verso di te. Ti metto la scatola di latta dorata, spazzatura, davanti e aspetto. Aspetto il tintinnio. E aspetto ancora un po'. Tintinnio, dico grazie. Tintinnio, dico grazie di nuovo. Attraverso la platea tintinnando, torno allo sgabello da bar sul palco, chiudo la scatola, la scuoto e sorrido al suono. Suona bene, vero? Naturopata, omeopata, ayurvedico, bioenergetico, psicoterapeuta, psicoterapeuta familiare, nutrizionista, yoga, terapia cranio-sacrale, massaggio terapeutico, meditazione. Tin, tin, tin. Libri, riviste, articoli su internet. Balliamo. Documentari. Tin, tin, tin. Conferenze. E so che lui non tornerà. Inspira, espira. Naturopata. Tin, tin, tin. Omeopata. Poi se ne va dicendo che non tornerà. Ayurvedico. Ok, cosa abbiamo qui? Psicoterapeuta. E poi hai iniziato? Psicoterapeuta familiare. Conto i soldi. Poi iniziai a cercarti. Yoga. Conto i soldi ad alta voce. Terapia cranio-sacrale. Massaggio terapeutico. Meditazione. Beh, sicuramente non abbastanza per essermi di alcun aiuto. Articoli su. Bisogna che continui a lavorare sulle mie tattiche di sopravvivenza. Conferenze. Epilessia. Depressione. Ho navigato i sette mari. Psicologia. Ho scalato sette montagne. In generale. Ho attraversato sette paludi. Ho già detto che sette è un numero magico? Fisico. E mentre stavo navigando, scalando, guardando, tutta un tratto sono inciampata. Inciampai, caddi, cominciai a rotolare, giù per la collina. E poi mi svegliai. No, no, smettere no, di bere. È una sorta di espressione poetica, smettere quest'ultima frase, fumare. Intendo. Cioè, la frase mi svegliai. Mi svegliai per davvero. Alle 5 una del notte, mattino. Forse era già mattina, addirittura giorno, non ricordo. Mattutini. Mi svegliai e il mondo era diverso. Meditazione. Mi svegliai sul divano del mio soggiorno. 5 pasti al giorno, 3 cucinati da me. andare a letto presto, prendersi cura dei bambini, cucinare 3 volte al giorno, occuparsi della casa. Inizio a spogliarmi. Smettere di fumare. Prima le scarpe da corsa. Smettere di fumare. Calzini, pantaloncini da corsa. Smettere maglietta, di fumare. Mutandine. Sono qui, nuda, davanti a te. Dunque, dove ero rimasta? Prima di raccogliere le vostre donazioni. Sì, stavo elencando tutte le patologie che si verificarono come conseguenza di una patologia di base, del trattamento medico di una patologia di base. In pratica, all'età di 15 anni, quindi 35 anni fa, cominciai ad assumere farmaci antiepilettici. Provai un'infinità di tipi di farmaci dall'età di 15 anni. Non mi aiutò davvero. Non ci fu mai un periodo di più di 2 mesi completamente privo di crisi. Nel frattempo avevo meno crisi gravi, ma continuavo comunque ad avere crisi per tutto il tempo, quando poi, al momento della tragedia, aumentammo il dosaggio. Cambiamo i farmaci e aumentammo di nuovo il dosaggio. La mia vita divenne davvero insopportabile. Non potevo andare avanti così, come una ameba. Qui magari mi esibisco in una sorta di stile ameba. O forse no. Forse esibirmi in un stile ameba è troppo offensivo. O di cattivo gusto. O perlomeno indecoroso e indecente. Ma poi d'altra parte chi se ne fotte? Punto. Dovrei semplicemente esibirmi in una sorta di stile ameba. Beh, decisi di interrompere la terapia e provare a vivere senza farmaci, perché non avevo idea di cosa significasse. Avevo trascorso tutta la mia vita adulta sotto farmaci. Iniziai a frequentare un medico di medicina cinese. Un naturopata, un omeopata, un ayurvedico, un bioenergetico. Iniziai a leggere libri, yoga, terapia craniosacrale, articoli su internet, a guardare documentari, frequentare conferenze su epilessia, depressione, psicologia, salute in generale, alimentazione, esercizio fisico, meditazione e anche su anima, Dio, amore. E in più smisi di mangiare prodotti a base di grano, latte, carne rossa e zucchero. O una delle cose più difficili era smettere di bere caffè. Io feci anche questo. Io, una fumatrice incallita e caffè dipendente, iniziai a seguire una routine quotidiana davvero ferrea, che significa svegliarsi alle 5 del mattino, esercizi mattutini, meditazione, 5 pasti al giorno, 3 dei quali cucinati da me, andare a letto presto, quindi prendersi cura dei bambini, cucinare 3 volte al giorno, occuparsi della casa, svegliarsi alle 5 di mattino, esercizi mattutini, meditazione, 5 pasti al giorno, 3 dei quali cucinati da me, andare a letto presto, quindi prendersi cura dei bambini, cucinare 3 volte al giorno. La cosa più difficile del mattino, esercizi mattutini, meditazione, 5 pasti al giorno, 3 dei quali cucinati da me, andare a letto presto, quindi prendersi cura dei bambini. Non riuscivo proprio, ci ho provato una volta, fallito, provato ancora, fallito, nel frattempo le cose iniziarono ad andare un po' meglio, niente più corsa al pronto soccorso, settimane alterne, iniziai a ridurre i farmaci antiepilettici, mi feci una specie di calendario personale dove annotavo tutti i dati importanti in modo molto scrupoloso, numero di crisi al giorno, tipo di crisi, circostanze che potevano in qualche modo influenzare le crisi, come ore di sonno, meteo, ciclo mestruale, persino le fasi lunari, poi la digestione, il cibo consumato, l'esercizio fisico, i chilometri percorsi e così via. Iniziai persino a registrare il sesso. Stai forse sorridendo? Non che registrarlo mi abbia dato molto lavoro. Stai forse sorridendo adesso? Per favore, sorridi alla mia spiritosissima battutina sconcia. Un calendario simile a quello che tenevo da bambina per la pipì a letto. Una nuvola per una notte bagnata, un sole per una notte asciutta. Quindi il mio calendario, amorevolmente soprannominato calendario io la mega vittima, diceva che la frequenza delle crisi non cambiava se riducevo l'assunzione di farmaci e io la ridussi ancora un po'. Il mio neurologo non era molto contento, non lo è tuttora. Sembra che l'unica soluzione che la neurologia contempli per me siano i farmaci o il coltello, ovvero un'operazione. Non voglio un'operazione. Non spiegherò ora il perché, non abbiamo abbastanza tempo, te lo dirò un'altra volta. Per ora il fatto che non voglio dovrebbe bastare. Quindi, cosa scegliere se si hanno di fronte 2 opzioni? Una sono i farmaci, l'altro il coltello. Oh mio Dio, sono proprio una mega vittima. Dunque, sì, devo ancora spiegare della corsa. Il ho iniziato a parlarle all'inizio, ma poi ho finito la storia. Quindi, per tutti questi dottori, tutti i dottori convenzionali, anche tutti i dottori biopositivi, il mio corpo era debole. Si era indebolito per il troppo lavoro, la mancanza di cure, ma soprattutto per tutte le crisi che aveva dovuto sopportare. Quindi dovevo diventare più forte, mangiando più salutare, riducendo lo stress, riposando di più e, ultimo ma non meno importante, facendo esercizio. Così, oltre allo yoga e agli esercizi tibetani, iniziai a correre. Ero piuttosto scarsa all'inizio, non riuscivo a correre per più di 10 minuti, ma mi ero posta un obiettivo. Farò una maratona per il mio 40° compleanno, che era 10 anni fa. La prima fermata era una mezza maratona di Lubiana, il 26 ottobre 2014, quindi esattamente 2 settimane dopo il debutto di questo spettacolo. Quindi sì, facendo tutto questo esercizio le condizioni erano notevolmente migliorate, iniziai a alzarmi dal mattino con più facilità. L'unico problema che continuava a persistere era di tipo finanziario. Avete idea di quanto cazzo costino tutti questi dottori eco-biopositivi? Quanto costi tutto questo cibo eco-biopositivo? E di quanto tempo richieda questo stile di vita eco-biopositivo? Tempo che potrei altrimenti dedicare al lavoro o naturalmente ai figli? E ovviamente ogni volta che ho una crisi non posso tornare a lavorare come se nulla fosse, sono diventata piuttosto inaffidabile. Disdico le cose all'ultimo momento perché non riesco a gestirle. Cosa che inevitabilmente si traduce in sempre meno lavoro e sempre meno soldi. La maratona, lo stile di vita eco-biopositivo, costa, cazzo quanto costa, ma continuo a lavorare su tutto e continuerò a lavorarci, continuerò a smettere di fumare, continuerò a correre, vivrò una vita sana, eco-bio e positiva, e anima, e Dio, e amore. Amore, no, no, no, no, no, no. Non parlerò di amore adesso. Quindi vi chiedo gentilmente un contributo volontario. Amore, e Dio, e anima, e Dio, e amore, no, no, no, non parlerò di amore adesso, scusate. Cammino verso di te, nuda, aspetto di fronte a te. E amore, Dio, no, scusate, non parlerò di amore adesso. Sorrido, nuda, aspetto. Tintinnio. Tintinnio? Tintinnio. Torno sul palco e tutto come prima. Scuoto la cassa. Estraggo i soldi. Conto i soldi. Li conto ad alta voce. O semplicemente alzo le spalle. Temo che ci sia ancora un po' di lavoro da fare. Temo che questo non sia ancora sufficiente. Beh, andiamo avanti. E ora entra la truccatrice. Truccatrice per spettacolo, 85 euro. In una mano tiene uno splendido abito di seta dorato in Aidan Mattox sequined, cold shoulder dress, 217,80 euro, e nell'altra mano gli splendidi, assolutamente splendidi, sandali dorati. Attacco alto, 170 euro, ha una borsa appesa alla spalla, quando arriva per prima cosa estrae delle splendide, assolutamente splendide mutandine dorate, 39,90 euro. Mi metto le mutandine, 39,90 euro, mi metto il vestito dorato, 217,80 euro, mi metto i sandali dorati, 170 euro. La truccatrice estrae i trucchi dalla borsa, mascara, eyeliner, ombretto, oro, cipria, rossetto e compie un piccolo miracolo sul mio viso. Divento sempre più bella. La truccatrice esce, la dramatis persona Simona Semenic ora è tutta dorata. Mai indossato un vestito dorato in tutta la mia vita. Che ovviamente è una bugia, l'ho fatto stamattina durante le prove. Mai indossato scarpe dorate in tutta la mia vita. Un'altra bugia. Ho camminato tutta la mattina in queste scarpe dorate solo per imparare a muovermici dentro, per non essere troppo goffa davanti a te. Per te è tutto per te? No, no, no, sto cadendo nel patetico. È la verità? Per te? Tutto per te. Perché sto migliorando le mie tattiche di sopravvivenza. Quindi dove ero rimasta? Dove ero rimasta? Amore. Dio? Te lo ricordi? Anima? Dio, amore, anima. No. Non parlerò di amore adesso. La maratona. No, cioè sì, non parleremo di banalità adesso. No, l'amore è importante, ma non in questo spettacolo. No, lo stiamo parlando di vita eco bio positivo. Stiamo parlando di cose meno profane, cose serie, cose essenziali. Cioè l'amore, questo è un argomento per un altro assolo di parole o dramma. Sì. Una volta che avrò fatto tutto questo, una volta che avrò acceso tutte queste sigarette, una volta che non avrò bevuto tutti questi caffè, una volta che avrò mangiato tutto questo cibo super sano, una volta che avrò corso tutte le maratone, una volta che andrò a letto ogni sera senza temere di svegliarmi nel bel mezzo della giornata in un altro posto ricoperta di sangue e piscio. Una volta che andrò a letto ogni sera senza avere paura di non svegliarmi affatto. Allora. Mi occuperò dell'amore. Un'altra volta. Forse ne parlerò un'altra volta. Sì. Ma oggi vorrei solo controllare se ho fatto progressi nelle mie tattiche di sopravvivenza. Perché mi sembra di sì, drammaturgicamente parlando. Quindi di nuovo vi chiedo contributi volontari. Penso che tu sappia già cosa stia per succedere ora. Scatola di latta dorata. Suona bene, vero? Tintinnio. Cammino verso di te, nuda. Aspetto di fronte a te, nuda. Sorrido. Aspetto. Tintinnio. Torno sul palco. È tutto come prima. Scuoto la cassa. Suona bene, vero? Estraggo i soldi. Ok, cosa bene. Abbiamo qui? Conto i soldi, li conto ad alta voce o semplicemente alzo le spalle? Temo che ci sia ancora un po' di lavoro da fare. 5. Temo che questo non sia ancora sufficiente. Conto. Scrivo. O scrivi tu? Bene, ci siamo. Penso di essere riuscita a fare qualche progresso, ad affinare un po' le mie tattiche di sopravvivenza. Tutto quello che serve alla fine è un'immagine dorata. Sono seduta sullo sgabello da bar. Tutta dorata. Ti guardo, mi guardi, ti sorrido. Grazie. Respiro. Grazie. Respiro. Io, la mega vittima. Si spengono le luci. Applauso. Cioè solo se vuoi. Se vuoi applaudi, se non vuoi non applaudire. Non applaudire, voglio dire che tu non sei obbligato ad applaudire se non vuoi, anche se le didascalie dicono così. Mi alzo e mi inchino. Il mio splendido abito dorato di Aiden Mattax. Aiden Mattax Equine Cold Shoulder Dress, 217,80 euro. E i miei splendidi sandali Badgalai Mishka. Badgalai Mishka Women's Landmark. 170 euro. La maschera mi porta una rosa, anch'essa bellissima. Rosa rossa Naomi su stelo di 60 centimetri, 3 euro. E per concludere, la più bella didascalia che sia mai riuscita a scrivere. Inspira. Espira. La seconda volta ha debuttato il 12 ottobre 2214 a Lubiana, al Festival Città delle Donne del Club Gromka di Metelkova. In Italia il testo è stato messo in scena il 7 ottobre 2023 al 19° Festival dell'Eccellenza al Femminile del Teatro di Genova, con Simona Seminic come performer. Grazie. Comunque farei un ennesimo applauso perché era tutto improvvisato e sono state bravissime. Ulteriore difficoltà, il testo non era in ordine, quindi... No, l'ho stampato un po'... Vabbè. Quindi bravissime. Bravissime. Sono estasiata dalle vostre abilità. Do un veloce contesto. Ok, allora questo era il terzo testo scritto da Simona Seminic, che fa parte di una trilogia composta da 3 testi, in cui appunto il testo diventa sempre più performativo, nel senso di come è scritto, E questo ultimo testo che ha scritto, il primo è stato scritto nel 2007, l'ultimo nel 2014, è stato scritto proprio per essere messo sul palco, lasciando al pubblico la possibilità di leggerlo come voleva. E per questo motivo abbiamo deciso di farlo ascoltare come il testo suona. Esatto. Penso che sia anche evidente per chi ha seguito le altre puntate di Simona Semenic che in questo episodio c'è forse un'estremizzazione della vittimizzazione e quindi c'è una presa in giro portata all'estremo di tutte le sue malattie con l'obiettivo di riscuotere denaro dal pubblico proprio perché poverina con tutto quello che subisce, la povera mega vittima ha bisogno di denaro per vivere, no? E per sostenersi. E, forse come prima domanda che farei a tutte voi, visto che appunto nessuna, forse a parte Martina, aveva ancora mai letto il testo, come è stato questo processo di improvvisazione stasera? Giulia, Paola, chi vuole iniziare? Molto divertente in realtà, nel senso eravamo un po' preoccupate di tradire il senso originale di questa performance perché appunto è pensata per far trovare quello che abbiamo letto all'inizio, le autodichiarazioni al pubblico e avere il pubblico veramente qui, quindi a un certo punto io avrei voluto passare il microfono a qualcuno del pubblico, però è anche vero che stiamo lavorando per restituire queste drammaturgie e c'era già un livello di complessità elevato nel cercare di ascoltarci, perché poi qualcuno ha lavorato insieme, qualcuno si è conosciuto stasera per la prima volta, quindi è un gioco di fiducia abbastanza divertente davanti a voi, per cui cerchiamo di restituirvi questo racconto, però di divertirci, ed è come se ci si mettesse d'accordo senza parlare su ok, in questo momento sento il ritmo un po' così, lo tiro su, io gioco, ti lancio la palla, vediamo se tu la accogli, e con loro è molto divertente. Effettivamente prende vita, credo. È ovvio che pubblico veramente normale è un po' un'altra cosa, perché noi lo facciamo di mestiere, quindi è il nostro strumento, lo usiamo, è come una jam session con qualcuno che non ha mai suonato uno strumento, qualcuno che lo suona tutti i giorni, però per me è divertentissimo, cioè facciamolo ogni sera. Però un contributo volontario, per favore, che il lavoro delle artiste è molto difficile, scherzo. No, sì, effettivamente per noi è stata una jam session, cioè invece di suonare... Che poi comunque avete anche suonato. Ce la siamo cantata. Ma no, è stato molto divertente. E a un certo punto io ho avuto un momento di panico, perché ho detto, oddio, non soltanto è stato stampato in maniera... cioè un po' bislacca, ma ho pensato, ma io ho un altro testo, perché non mi sono resa conto subito, infatti ho guardato giù, capisco cosa sta succedendo, perché saltavate, io non me ne ero accorta all'inizio. Performance. Probabilmente io ho un altro testo, invece no, ma questo è viziato dalla diciamo dall'abitudine al testo programmato e programmatico e non postmoderno, perché già Simona è molto oltre, no, il teatro di prosa, quindi gente abituata, non abituata al post-drammatico. Io non è che lo faccia tutti i giorni, anzi vorrei farlo molto di più, ma in Italia è molto difficile. Cioè nel momento in cui c'è così tanta libertà, giustamente qualcuno lo prende così e io ho detto, oddio, già ho il testo sbagliato, quando in realtà ci stavamo solo divertendo. Stai tranquilla, Giulia, respira. E quindi è stato fighissimo. Però ecco, mi chiedo, noi ci siamo divertite come si divertono delle attrici con un testo così, quindi alla grande. Mi chiedo invece un pubblico senza velleità artistiche o mestiere, semplicemente, come può ricevere un testo così, quindi è molto affascinante. È una giusta osservazione, anche perché appunto questo testo è stato, per chi non conosce Simona Semenic, lei è una drammaturga slovena. E la traduzione di tre suoi testi appunto è stata portata in Italia e anche in scena, quindi io ho assistito, avendo curato la traduzione, alla messa in scena di questo testo effettivamente in un teatro con un pubblico che non era attore. E ovviamente questa cosa vive, appunto, ti porta a comprendere quanto un testo può veramente far nascere delle cose che possono anche essere che non succede nulla e che le persone sul palco non sappiano cosa fare, e nel momento in cui decidono di non fare nulla, però sono responsabili della non riuscita di uno spettacolo di cui magari si lamenteranno. E quindi questo diventa anche un po' un mezzo per farti capire, comprendere e vivere quanto davvero a volte, non perché una cosa è scomoda, non ci prendiamo la responsabilità di fare qualcosa di diverso e poi ci lamentiamo del fatto che lo spettacolo non era bello. Quindi è un po' come dire, siamo un po' tutti io la vittima? Non lo so. Sì. Sai cosa? Io facendolo ho proprio pensato, se fossimo in una situazione, cioè ho visto anche la gente, no, rilassarsi, ascoltare, assentarsi, ritrovarsi, e anche io guardando, cioè sfogliando le pagine, ascoltando, ho proprio pensato che avendo più tempo, ma un tempo esagerato, come penso che poi sia lo spettacolo, c'è la possibilità di navigare. Nel senso che si crea proprio uno spazio in cui queste parole vengono, tornano. È stato anche piuttosto, cioè non è stato difficile attaccarsi e improvvisare, scegliendo anche una pagina a caso, no? Che era un po' a volte il mio tentativo, perché ci sono delle cose, delle immagini che tornano, cioè immagini che si legano, che Bravissima. Si sovrappongono, e in questo sento che ovviamente, cioè, è chiaro che il nostro essere attrici ce lo rende sicuramente divertente, ma anche da pubblico mi immagino la possibilità di sostare tra queste pagine, no? Infatti la cosa che mi sono detta è avremmo potuto anche, no, fermarci, però c'era molta fame di scoprire e di leggerlo, anche perché appunto era la mia prima lettura anche per noi. Però appunto avrei, cioè mi immagino in un tempo ancora più ampio, come poter dilatare questo testo, no? E anche questo è un po', hai detto delle cose che sono limitate all'esperienza che abbiamo vissuto stasera, ma in realtà hanno proprio a che vedere con un tipo di, anche per lei, di memoria che torna, che, cioè, è quasi più musicale che narrativo e lineare, perché appunto c'è sia questa cosa che non mi ricordo dove ero, no? Perché appunto arrivano queste crisi che ti portano in questa nuvola, quindi anche la lettura stessa che ti parla di questo, in realtà ti fa vivere questo tipo di esperienza in cui a un certo punto le cose si offuscano, poi una cosa ritorna e alla fine lei ti sta portando una cosa, magari anche facendo ironia per giocare un po', anche per parlare di tematiche importanti come appunto essere vittima di una malattia grave, ma anche per far giocare un po' con quello che si tende a fare a volte, nel senso spettacolarizzare il vittimismo per sfruttarlo, però d'altra parte poi mette insieme un po' tutto questo e crea davvero un'esperienza che gioca su diversi fronti. È anche una riappropriazione, no? In qualche modo, lo dicevamo forse qualche puntata fa, il poter ironizzare, l'ironia ha un grande potere sul fatto di autonarrarsi come vittime, e questo carattere spiazzante di Simone è quello che penso ovviamente tramite Martina ci ha fatto innamorare, no, a noi della sua drammaturgia, e qui il carattere spiazzante è ancora più ampio, è bellissimo. Mi fa ridere vedere come la disposizione dello spot dei microfoni è cambiata. E dico, quanto può muovere un testo? Io mi spostavo proprio. Cioè, il desiderio di andare, di andare a prendere tutti gli spazi, perché anche se lei in teoria ci dice che è seduta su uno sgabello, ma la pluralità di voci che c'è all'interno del testo mi impediva di stare ferma. Cioè, non potevo sceglierne uno. di postazione, mm-hmm. cioè la desiderio era quella di saltare. E anche in teatro accade un po' così, cioè quando l'abbiamo fatto in teatro all'inizio c'è questo imbarazzo e poi a un certo punto quando uno prende parola, allora l'altro gioca, allora c'è uno che faceva solo i rumori, tin tin tin, e quell'altro ogni volta che c'era il tin allora voleva dirlo, quindi sì. Ma secondo voi, siccome poi il tema di Simona credo sia anche quello di mettere in discussione quello che dicevamo del ruolo, diciamo, dell'attore, dell'attrice, del pubblico, e quindi appunto penso che sia anche un testo che proprio per come anche l'avete performato voi si presta moltissimo, no, a insomma essere anche performato da chi non, insomma, non lo fa di mestiere, cioè secondo voi cosa... qual era il suo obiettivo o comunque diciamo qual era il suo intento anche nel creare questa forma di teatro o anche non per lei, per voi, cioè qual è la bellezza di questo, di questo coinvolgimento, no? Di questo, no, mi viene da dire una cosa, uscire sia secondo me dallo spazio scenico che dal testo stesso, cioè di mettere proprio cosa, in discussione la struttura del teatro, ecco un po', penso. Che sicuramente Marte ha studiato di più Simona Semenic di noi, ma mentre parlavi mi veniva in mente questa frase che lo spettacolo si costruisce nell'occhio dello spettatore, e in questo caso dico lo spettacolo si costruisce nell'interpretazione dello spettatore, nel senso che noi ci siamo divertiti, abbiamo preso anche, no, una certa, una, cioè, insomma, l'abbiamo letto in un modo. Marte ci racconta come a Genova le persone che erano presenti l'hanno letto in un altro modo, si sono divertiti in un certo modo. E quindi questo spettacolo è sempre uno spettacolo diverso ed è uno spettacolo che prende forma in base al pubblico che trova e quindi si crea nello spettatore. E questa è una cosa, devo dire, super interessante, cioè che trovo super interessante della sua scelta. E oltre a questo è il far riflettere su come, perché c'è stato un grande dibattito su come appunto il teatro è performativo, il testo è cultura testuale, fissità. Nel momento in cui tu leggi, poi lo senti, adesso noi l'abbiamo fatto vivere, ma di base anche quando io adesso sto leggendo un libro, per esempio, molto bello, ci sono dei passaggi che mi piacciono molto, ritorno su un passaggio. Quel testo in quel momento è un'esperienza unica ed è il rapporto, la performance tra me e il testo. Quindi di base è un po' mettere in scena la performance che si crea tra il lettore e il testo, che è attivo nel momento in cui tu lo leggi. C'è un'interazione che è unica e irripetibile, perché l'abbiamo letto stasera in un unico e irripetibile modo. Quindi lei gioca tanto con i ruoli che diamo a un qualcosa, cioè il ruolo del testo è stare lì fisso e lo facciamo muovere. Gioco col palco, il ruolo del palco è far fare qualcosa a qualcuno, quindi metto il pubblico sul palco, vediamo se il pubblico gioca. È tutto un giocare con le gerarchie per far muovere delle cose. E devo dire che c'è un, proprio hai usato la parola giusta, il gioco, no? E diciamo che questo testo da attrice ti mette un po', diciamo, di fronte alla tua necessità di performare sempre bene, quindi c'è anche quella sfida lì a dire abbandonati al testo, non preoccuparti di essere brava, che è una cosa terribile con la quale almeno io mi confronto, poi sapendo che questa cosa non è una roba che non vede nessuno, è registrata, quindi deve essere interessante artisticamente, quindi il mio panico del non capire, oddio mi sono persa il filo, vedi che adesso hai rovinato tutto, in realtà no, cioè questo è proprio esemplificativo del fatto che noi siamo, anche se dovremmo avere un rapporto sano e diretto con il gioco, perché inserite in determinate dinamiche, noi che dovremmo giocare di mestiere, nel momento in cui ci troviamo invece a una situazione di pura libertà, terrore, angoscia, almeno io. Cosa che vale tra l'altro anche per le persone che lo leggono, secondo me, immagino, non so come è andata a Genova, che non lo fanno di mestiere, cioè ti viene un po' il oddio, paura, lo leggo ad alta voce, chi mi ascolta? Leggo male, e magari decido di non leggere. E in realtà questo testo è fatto per essere messo in scena da tutto il pubblico, ma a Genova non c'era un palco abbastanza grande per contenere tutto il pubblico, quindi abbiamo deciso che parte del pubblico, solo quella che acconsentiva, stava sul palco, il resto del pubblico guardava. E ancora la direttrice peggio. Del festival disse: ma se non succede nulla? Ed è anche un po', e lei ha detto meglio, perché stava succedendo le cose a Gaza, eccetera. Diceva: quello è, noi siamo in questa scatola nera e il pubblico fuori è frustrato perché guarda e non può fare nulla. Infatti, sicuramente, per rispondere in ultimo alla tua domanda, credo che ci sia questa parte più politica, tra virgolette, di discorso sull'assunzione di responsabilità, e credo che ci sia, che è molto più personale, ma per questo ugualmente politico, il discorso che Simona ha in tutti i suoi testi di ricerca di parlare con te, questo tu maiuscolo che c'è in tutto il testo, perché per chi lo ascolterà registrato non lo può vedere, ma nei fogli dati in sala all'inizio, cioè, si vede. È sempre questo tentativo di dire: ok, io sono in teatro, ma io parlo con te, con un tu reale, e tutta tutto il corpo, la materia, anche veramente questo metterci in mezzo i costi di produzione, questo abbassare, provocare costante, sono tutti tentativi per arrivare a capire che ci siamo davvero, io e tu. Infatti un'altra cosa che trovo molto potente, anche l'ho sentita anche in lettura, è proprio il desiderio di Simona di creare relazione tramite questo testo, e lo fa sia rivolgendosi a questo tu così diretto, che leggerlo davanti a un pubblico ti fa sentire la necessità di guardare negli occhi le persone che hai davanti. E quindi mi immagino, no, anche in un gruppo di persone che leggono ad alta voce a te, cioè mi guardo attorno e vedo il resto del pubblico che è dentro questa esperienza insieme a me, e poi la grossa relazione è: io ti do le mie parole, no? E te le do da leggere, e anche questo è un modo di entrare in relazione in maniera insomma più rivoluzionaria, no? Perché te le dono, faccio un atto di fiducia, e attraverso il testo stiamo parlando, no? Io parlo attraverso di te, tu parli con le mie parole, cioè, ed è anche un tu che si riferisce appunto nella ricerca di questa relazione, a far rendere conto a chi osserva o legge, che sempre pensa di essere in una posizione passiva, quanto in realtà anche il tuo ruolo in questa relazione è imprescindibile, è fondamentale. Dovrebbe essere la base del teatro, no? Non esiste se non c'è uno scambio, e qui ti costringe da testo a stare in relazione, quindi è una dolcissima forzatura, ecco, questo penso. Allora, visto che è l'ultima puntata dedicata a Simona, forse vi chiederei, così per chiudere anche la puntata, che cosa, cioè qual è l'insegnamento o diciamo l'esperienza migliore che vi ho portato a casa da Simona, e forse anche un po' l'aspettativa che questo insegnamento o insomma questo questa cosa che vi portate dietro vi immaginate possa avere effetto nel futuro, e quindi nel mondo del teatro, come questo può cambiare o meno lo status odierno. Allora, da drammaturga direi la libertà del gioco, assolutamente. La libertà di giocare, di poter dialogare con le didascalie, con il corpo testo, che è effettivamente performativo anche nel momento in cui lo scrivi, oltre che nel momento in cui lo leggi. Quindi questo sicuramente. E ok, aggiungo da spettatrice anche la vicinanza grazie a questo cinismo, a questa provocatorietà, che però appunto, cioè, è alta drammaturgia, ma è vicina alle persone. E adoro, facciamo Simona Semenic, produciamola ovunque. Ma ormai appunto con Simona diciamo che è diventata un'amica, anche se non la conosciamo direttamente, perché è un annetto, anche di più, che diciamo parliamo attraverso di lei, quindi ormai siamo affezionatissime e io da lei prendo la assoluta sincerità e sì, nella libertà, giustamente era la prima parola che mi veniva, che mi è venuta in mente, ma giustamente l'ha già detta Giulia, quindi dirò qualcos'altro, perché c'è un sacco da dire in realtà. L'assoluta sincerità, sì, senza piaggeria, perché c'è un tipo di teatro che va molto ultimamente, ma in Italia, ma anche nel mondo, ma penso che all'estero siano, avevano un pochino più di anticorpi, che c'è questa volontà di provocare e mostrarsi come dirompenti, come metto alla berlina il sistema, però lo faccio con un atteggiamento un po' viziato, un po' con il gusto di scioccare, che ormai nel 2025 non ci sciocca più niente. Invece Simona cosa fa? Sì, fa esattamente questa cosa, quindi provoca, ma semplicemente dicendo la verità, ma cosa fa poi? Si prende cura del pubblico e mostra anche una dolcissima necessità di essere, non soltanto di essere vista, ma anche di condividere la sensibilità che si ha nel momento in cui si sale su un palco. Quindi questo per me è un'urgenza che mi porto dietro, vorrei portare dietro e vorrei portarmi dietro anche nel teatro e in tutte le produzioni italiane, questa urgenza senza la necessità per forza di proteggersi da una sincerità che invece il pubblico richiede. Ma a me di Simona mi colpisce come primissima cosa l'ironia che lei riesce a portare e con cui tratta il dolore, e non so se questo insomma possa cambiare, ecco, le sorti del teatro, però personalmente mi colpisce e mi permette di entrare molto in empatia con lei e insomma anche renderci conto che possiamo parlare di dolore, di fragilità senza scadere e senza neanche nasconderci, quindi questo equilibrio che lei riesce a creare mi piace molto, e sentire anche le sue paure, io ho letto un po' il libro, e no, leggere che lei chiama l'amico alle 3 di notte dicendo: ma chi cazzo lo vuole sentire questa roba, ma farà schifo, ma perché mi lagno, ma nessuno mi vuole sentire queste cose, ecco, cioè io quello l'ho amato, ho detto: Simona, sei una di noi. Cioè siamo tutti qui a chiederci che cosa me ne faccio, no, di questo dolore, di quello che sento, dove lo metto, chi lo vuole sentire. Ecco, quindi questo coraggio me lo porto con me. E poi il suo, attraverso il testo, cioè già nel testo, scegliere di cambiare lo spazio, del teatro e di creare, cioè di provocare qualcosa dentro una comunità, cioè che crea comunità in una serata, anche questo mi sembra interessante e che insomma mi interessa anche vederlo e farlo, ecco. Auspicabile. E quindi ne approfitto per chiudere, cioè grazie a tutte veramente. Grazie a voi. Bravissime. Dicendo anche a voi. Chi siamo, per chi ha ascoltato fino adesso. Giulia Trivero, attrice, drammaturga. Giulia Maino, attrice, drammaturga. Paola Galassi, attrice e sperimentante, drammaturga, autrice. E Laura e noi. Noi che appunto con questo podcast radio show cerchiamo di dar voce a, di far ascoltare anche dei testi per far sì che appunto la drammaturgia venga sentita, ascoltata e che risuoni in tal, e appunto per questo motivo le prossime puntate che faremo poi da settembre si apriranno, oltre che a Simona Semenic, come abbiamo già fatto per il terzo episodio con Controtempo, appunto a dar voce a, ad altri testi, ad altri autori, e rinizieremo il 24 di settembre alla Corte dei Miracoli con un testo di la qui presente Paola Galassi. Grazie. Grazie, grazie a tutti e a tutte.